Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo nella seconda ora del programma del vertice europeo che inizia questa sera. Già alcune dichiarazioni: per l'Italia c'è Mario Monti come presidente uscente facente funzioni, però si entrerà nel vivo questa sera e poi domani. Vertice in bilico tra austerità e crescita. Non potranno i leader ignorare anche il messaggio di ieri che è arrivato dall'Europarlamento, ossia la bocciatura del bilancio comunitario, né potranno essere minimizzate le proteste contro l'austerità che arrivano da diversi stati. Oggi 15.000 rappresentanti dei lavoratori europei si sono riuniti al Parco del Cinquantenario, vicino al vertice, chiedono di porre fine alla politica dell'austerità e di dare una risposta all'emergenza sociale. È previsto anche un intervento del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, e ricordo che la bozza uscita nei giorni scorsi lasciava intendere, non dico un ammorbidimento, ma insomma maggiore comprensione per l'austerità e per il cosiddetto fiscal compact, cioè per tutti gli obiettivi di riduzione del deficit e del debito. È presto però per dire se poi questo vorrà significare anche un maggiore ammorbidimento, vista la recessione in atto, delle richieste sulla riduzione di deficit e debito. Ancora, come va la borsa invece? La borsa va molto bene, più 2,20% Milano, che è la migliore tra quelle europee, Parigi più 0,80%, Francoforte più 1%, Londra più 0,70%, l'America guadagna lo 0,44%. Titoli che si muovono bene non solo e non tanto i bancari, ma Generali guadagna l'8,80%, Popolare Emilia Romagna il 6,40% e poi A2A il 6%, Telecom Italia molto forte, più 5,80% come Mediobanca, Buzzi Unicem più 5, Enel Green Power più 4,70%, Mediolanum più 4,40%, Eni più 2,80%, Atlantia più 2,70, Prismian più 2,4, Autogrill più 2,2%. Chi perde oggi? Popolare di Milano meno 1,80, come UbiBanca, Tods meno 1,30, Diassori meno 1,20, Pirelli meno 0,80%. Vedo già delle domande su Generali. Beh, l'utile è crollato, però meno 90%, solo 90 milioni di euro. Pensate che sono state fatte però svalutazioni per 1,7 miliardi, vuol dire che delle cose che erano in bilancio valutate in un certo modo sono state rettificate, corrette per il loro valore attuale, e questo ha voluto dire svalutare varie partecipazioni per un totale di 1,7 miliardi. Però questa cosa è piaciuta al mercato, perché è piaciuta la cosiddetta pulizia di bilancio. Parleremo anche di borsa e di mercato borsistico, ma anche di mercato immobiliare in apertura. Il dato di oggi è obiettivamente drammatico. Certo, per uno che vuole comprare casa è un ottimo dato, per chi la vuole vendere è un dato che non si vedeva da tempo. Crollano nel 2012, sono crollate le vendite di immobili, meno 30%. Praticamente è il minimo da quando esiste la serie storica, da quando iniziamo a rilevare questa cosa, dal 2004. Siamo tornati come numero di abitazioni comprate e vendute, 444.000, a livello più basso dal 1985, e soprattutto quelle comprate con un mutuo sono crollate del 38%. Però nei primi mesi del 2013 sta rallentando la discesa dei prezzi, e di questo ci occuperemo, così come ci occuperemo tra poco anche di un altro indicatore. Ieri l'abbiamo fatto con l'indicatore delle vendite alimentari e anche di vino. Ci sono vari indicatori che arrivano per far capire la profondità e anche il livello di questa crisi. Non solo quelli macroeconomici e statistici. Oggi ci occuperemo di un indice che ogni tanto citiamo, il Baltic Dry Index, quello che misura quanto costa noleggiare un cargo per trasportare merci. Più il costo è alto, più vuol dire che l'economia di solito è ripartita e viaggia a pieno regime, quando invece questo indice si abbassa, vuol dire che costa poco noleggiare un cargo per trasportare merci perché c'è meno richiesta. Faremo il punto, cerchiamo di capire appunto quale sia la congiuntura economica utilizzando anche altri indicatori. E poi, come sempre, la vicenda borsistica che oggi si chiama Fondiaria Sai. Su Fondiaria Sai, infatti, avremo di che dire perché il gruppo Fondiaria Sai, con il voto determinante di Unipol, ha votato a favore delle azioni di responsabilità contro la famiglia Ligresti e diversi ex amministratori e sindaci della società. L'azione era stata proposta dal commissario Matteo Caratozzolo. Vedremo poi che cosa questo comporterà, però faccio solo notare che nel rapporto del commissario Caratozzolo l'accusa alla gestione di Gresti di avere depauperato, impoverito il gruppo Fondiaria Sai è fortissima. Le principali fonti di perdita sono state le operazioni immobiliari che prima ha fatto costruire poi acquistato delle società per Fondiaria Sai, che prima ha fatto costruire e poi ha acquistato delle società immobiliari dei Ligresti Residence, centri direzionali, alberghi a prezzi fuori mercato. E cioè il sospetto forte è che i Ligresti abbiano fatto comprare a Fondiaria Sai i loro immobili, più che il sospetto forte è un dato di fatto. Il problema vero è a quanto l'hanno pagato. Pensate che Ata Hotels è stato comprato nel 2009 a un prezzo incongruo, dice il commissario, di 25 milioni, ha generato 80 milioni di perdite. Ma non c'è solo questo, perché poi sotto accusa sono anche i corrispettivi pagati e definiti ingenti e ingiustificati allo stesso Salvatore Ligresti sotto forma di consulenze, cioè un presidente onorario che si fa pagare la consulenza al massimo, 42 milioni di euro in 8 anni si è fatto dare di consulenze. La figlia Ionella Ligresti, che da quello che noi sappiamo come vera passione ai cavalli, e infatti l'AITA, la società che gestisce la sua scuderia, ha ricevuto quasi 5 milioni di euro di sponsorizzazioni da Fondiaria Sai. Sarà una coincidenza, ma papà era presidente oltre che proprietario. Beh, Ionella Ligresti ha ricevuto, cito solo questa, poi andiamo avanti con le notizie in breve, tra il 2008 e il 2011 9 milioni e mezzo di euro come compenso per la carica di presidente. Dice il commissario: emolumenti abnormi secondo una prassi di cui hanno beneficiato anche altri esponenti, anche perché le deleghe affidate a Ionella Ligresti sono state esercitate in maniera sporadica e saltuaria, per non dire minimale, cioè non c'era quasi mai, aggiungo io, nell'esercizio delle sue cariche. Anche così si distrugge un gruppo come Fondiaria Sai, che lo ricordo per tutti, ha chiuso 2011 con 1 miliardo di perdite e 1 miliardo e 600 milioni di debiti, principalmente verso Mediobanca. Poi un giorno qualcuno ci chiarirà perché al piccolo imprenditore non si prestano neanche 300-400 mila euro delle volte, e invece Mediobanca era esposta per quasi 1 miliardo verso Fondiaria Sai. Non so, evidentemente i ratio patrimoniali dipendono dai salotti, non lo so, chiedo, mi faccio da solo una domanda e forse da solo mi do anche una risposta. Bellissimo il fatto che Fausto Marchionni, amministratore delegato dimesso sia inizio del 2011, lasciando un gruppo con 1 miliardo di perdite e 1 miliardo e 600 milioni di debiti, ha beccato di buona uscita 10 milioni e mezzo di euro. Questo a dire che gli scandali e la casta non è solo quella della politica. Torniamo anche a parlare infatti dei bonus ai super manager, 349-238-66, dei super bonus ai manager, non super manager, 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Andiamo rapidi, volete sapere quanto è lo spread? È un po' sceso a 317 punti e si è un po' allargata anche la forbice tra noi e la Spagna, mentre la Banca Centrale Svizzera ha fatto sapere che manterrà il tetto del rapporto franco con l'euro al massimo a 1,2, cioè non vuole che il franco svizzero si apprezzi troppo, si rafforzi troppo rispetto all'euro. Questo perché vi sarebbero gravi ripercussioni sull'economia svizzera. Del vertice europeo abbiamo già detto e parleremo domani. La Banca Centrale Europea oggi ha fatto sapere di essere estremamente preoccupata perché senza riforme strutturali vi sono rischi per la ripresa, e poi ha detto è un vero e proprio allarme quello sulla disoccupazione giovanile, i governi agiscano. Intanto in Italia è in corso una missione del Fondo Monetario Internazionale per valutare il nostro sistema finanziario. E poi dura oggi l'intervento della Banca d'Italia, che ha detto alle banche che hanno chiuso in perdita il 2012 o che hanno un indice di patrimonializzazione inferiore al livello comunicato dalla vigilanza, di non distribuire dividendi, cioè gli utili non vanno distribuiti. Gli utili, in questo caso non vi sono nemmeno utili, ma insomma non toccate il patrimonio per distribuire dividendi. E poi ha detto dovete anche attuare le rettifiche di valore sui crediti, cioè siccome l'economia sta peggiorando, un po' quello che è successo con Generali, andate a rettificare i valori che avete lì in bilancio, perché alcuni di questi possono essere crediti non esigibili oppure valori sovrastimati. E l'ultima stoccata, sempre la Banca d'Italia, l'ha data alle banche dicendo che se e laddove c'è un bilancio in perdita o un risultato di gestione negativo, non devono essere riconosciuti o pagati i bonus ai vertici, vanno ridotti anche al resto del personale. La misura non deve essere aggirata con un aumento dello stipendio fisso o del variabile per gli anni successivi. Io vorrei proprio andare a vedere se questo capiterà. Nel frattempo si è saputo che oggi uno dei migliori dei banchieri più pagati in Europa è Sergio Ermotti, amministratore delegato di UBS, dovrebbe ricevere un pacchetto di 8,4 milioni di dollari nel 2012, ma si è anche avuta notizia, come i nostri GR hanno ricordato, del maxi sequestro al gruppo Bulgari, 46 milioni di euro di beni immobili e disponibilità finanziarie. Le hanno sequestrate i finanzieri di Roma, con l'accusa ai vertici del gruppo Bulgari di evasione fiscale dal 2006 in avanti, pari a 3 miliardi di euro di ricavi. Sequestrato anche il palazzo di Via Condotti e è indagato sia Paolo che Nicola Bulgari, ma anche Francesco Trapani, che è già rappresentante legale della capogruppo italiana, e Maurizio Valentini, attuale rappresentante legale della capogruppo italiana. Una buona notizia prima di far venire il brucio di stomaco parleremo anche del mercato immobiliare, però abbiamo qualche notizia purtroppo sugli sprechi anche oggi e sui costi della pubblica amministrazione. Oggi, lo dico subito, ce la prendiamo col CNEL, da un lato, alla luce anche di quello che abbiamo letto sui vigili del fuoco. Il CNEL costa tantissimo, mentre i nostri vigili del fuoco hanno avuto tagli così forti che sono a rischio anche le bollette. Forse si commenta già da sola, però... Dicevo, la buona notizia potrebbe riguardare lo stabilimento pugliese di Bridgestone, perché il ministro Passer ha detto la chiusura dello stabilimento non è più irrevocabile. Si è aperto un tavolo per individuare soluzioni, l'azienda si è scusata con gli operai per le modalità in cui è stata comunicata la scelta di chiudere. A noi interesserebbe anche che non chiudesse, oltre che scusarsi per le modalità. E il sindaco Emiliano ha detto c'è una forte emozione, lo Stato serve, perché proviamo emozioni del genere quando senti che il governo serve a qualcosa. Certo che serve il governo, serve anche lo Stato e anche la politica. Sì. (349) 238 6666 per i vostri SMS, pagina di Focus Economia su Facebook. Prima di arrivare alle altre notizie, vorrei salutare, lo ringrazio per essere in collegamento, capire alcune cose con il direttore di Mutui Online, Roberto Anedda. Buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Allora, oggi abbiamo avuto un dato che, insomma, a vederlo così, è l'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Le vendite di immobili hanno fatto meno 29,6%, il mercato della casa è tornato ai livelli come compravendita del 1985, 445.000 unità, le case con mutuo, comprate con un mutuo sono in caduta libera, meno 38,6%, vorrei capire se questo ha una ripercussione immediata sui prezzi, perché invece abbiamo visto altre agenzie che dicevano è vero che nel 2012 hanno fatto meno 4% i prezzi delle case in media, con picchi del meno 7% in Sud Italia. e i grandi centri hanno visto cali del 6,5% rispetto a cali più contenuti nei piccoli centri. Però c'è chi dice che sta frenando la discesa dei prezzi. Allora, lei come la vede? Ah, in realtà i segnali sono abbastanza contraddittori, perché se si prendono le medie del mercato, chiaramente nella media c'è dentro un po' di tutto, sicuramente ci sono degli immobili che ancora tengono abbastanza il prezzo, soprattutto i tagli piccoli, monolocali, bilocali, che hanno certamente più mercato e continuano a essere richiesti, tant'è vero che il mercato non si è fermato, c'è un crollo forte di vendite, ma dovuto un po' anche alla crisi, alla preoccupazione delle famiglie, ma un certo numero di immobili continuano a vendersi e quindi quelli tengono il prezzo. Chiaramente però in determinate zone o con tagli di immobili più grandi invece le riduzioni di prezzo possono anche essere superiori e quindi addirittura andare in doppia cifra negativa se le medie sono anche solo del 5 o del 7%. E l'impressione anche in questo inizio anno è che per adesso non ci sia un freno particolare alla discesa dei prezzi. Non stiamo assistendo a un crollo sicuramente, ma c'è certamente spazio perché vi sia ulteriore limatura, almeno in certe tipologie di immobili, dei prezzi, proprio perché comunque non c'è una grande domanda, perché sappiamo che è quella che poi tiene sui prezzi o addirittura li fa risalire. E tra l'altro uno dei motivi per cui il mercato rallenta così tanto è anche perché tanti attendono che magari i prezzi scendano ulteriormente, sì, certo, o tirano in lungo la contrattazione per riuscire a strappare un prezzo più conveniente. Ecco, la nostra Valeria De Rosa ha raggiunto il vice direttore dell'Agenzia delle Entrate, da cui sono arrivati questi dati, Gabriella Alemanno. Sentiamo questa analisi sui dati appunto oggi diffusi. Ha una congiuntura economica che è quella che è, con una variazione negativa del PIL, un tasso di disoccupazione che è in crescita, con una produzione industriale che è calata, eccetera. Poi ci possono essere anche altri elementi di criticità, sicuramente tutto questo aspetto congiunturale economico è anche legato così a aspetti, direi così, chiamiamoli sociologici o psicologici, sociopsicologici, cioè un clima di sfiducia generale delle famiglie e comunque una maggiore difficoltà nell'accesso al credito da parte delle banche. Probabilmente ha influito anche l'introduzione dell'IMU, che può aver gravato più che altro sulla decisione dell'acquisto di abitazioni non destinate all'abitazione principale, mi riferisco alle classiche abitazioni, diciamo, seconde case, no? Mare, montagna. Per di più le criticità sono legate anche al fatto che ci sono tutta una serie di fattori che sono stati identificati dagli agenti immobiliari, che quali sono: un aumento in generale delle giacenze, quindi giacenze di magazzino di immobili, e dei nuovi flussi di incarichi a vendere; sono aumentati i tempi di trattativa, cioè se prima non so una casa tra il contratto preliminare l'accordo conclusivo passava magari 2 o 3 mesi, adesso passano più di 8 mesi, certe volte un anno; un calo congiunturale dei prezzi delle abitazioni, la gente percepisce i prezzi troppo alti rispetto alla situazione congiunturale generale, la difficoltà appunto di reperire un mutuo da parte dei potenziali acquirenti e comunque insomma aspettative abbastanza pessimistiche in generale. Ecco, dottora Nedda, stante queste parole dovremmo prevedere anche un 2013 molto debole. Lei che previsioni fa? Sì, sono abbastanza d'accordo su questa previsione. Tuttora anche noi vediamo un 2013 probabilmente non negativo come il 2012, ma perché chiaramente il 2012 viveva in pieno tutta la negatività della crisi che era scoppiata alla fine del 2011. Il 2013 potrebbe essere di assestamento, ma è comunque di assestamento su i numeri che dicevate all'inizio, cioè ancora molto bassi per questo tipo di mercato, e soprattutto la ripresa sarà abbastanza lunga, quindi ci vorranno un bel po' di anni per recuperare volumi importanti su questo mercato. Grazie al direttore di Mutui Online. Adesso, mentre c'è una difficoltà che registriamo anche nell'acquisto delle case, avete appena sentito, mutui concessi con difficoltà, pochi soldi, poca domanda. Insomma, i dati, anche questi dati, segnalano la difficoltà, chiamiamola così, nel potere d'acquisto più che dei consumi in questo caso. Beh, c'è chi difficoltà invece proprio non ne ha. Indovinate un po', andiamo a parlare di qualche comune, ma anche di qualche ente pubblico che di cui non si capisce obiettivamente il ruolo e la funzione. Abbassare, buttare anche più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, tre che più. Per esempio, qualcuno mi deve spiegare, col massimo rispetto per il CNEL, il presidente Marzano, la nostra ospite 2 o 3 giorni fa, però, insomma, c'è la Corte dei Conti che ha aperto anche un'inchiesta, la Procura della Corte dei Conti del Lazio, per far luce su vari aspetti contabili e amministrativi. Il CNEL, che va benissimo che ci sia un centro nazionale per economia e lavoro, ma costa 20 milioni di euro l'anno e ha speso un fiume di soldi in questi 55 anni per convegni, per produrre studi, spesso commissionati all'esterno, nonostante ci siano 7 dirigenti che costano 750 mila euro l'anno. Vediamo un po' come vengono spesi questi soldi. Allora, 2 milioni al presidente ogni anno, 2 milioni di euro di indennità al presidente e ai 2 vicepresidenti, e poi i 61 consiglieri, che costano complessivamente, perché praticamente ogni mese il presidente, il suo vice e i consiglieri intascano 17.000 euro il presidente, 3.500 euro i vice e 2.200 euro i consiglieri. E questo al di là del fatto che il CNEL si riunisca una volta solo al mese in media. I consiglieri che vivono fuori Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, e ogni anno vanno via 600.000 euro. Poi bisogna aggiungere 212.000 euro per le missioni in Italia e all'estero e 5 milioni di euro previsti nel budget 2013 per, non meglio precisate, spese per l'espletamento delle funzioni istituzionali. Poi ci sono 3 milioni e mezzo di euro spesi per acquisire e elaborazione dei dati necessari all'attività di programma, 1 milione e mezzo per pubblicità, comunicazione e relazioni esterne. 1 milione e mezzo di pubblicità, relazioni esterne, comunicazione. Ma che deve comunicare il CNEL? Faccia le analisi, le ricerche e ce le dica, no? C'è l'email, ci sono le email. La pubblicità deve fare il CNEL. Carta e cancelleria, vabbò, 350.000 euro. Stampa e rilegatura degli elaborati del CNEL, 150.000 euro. E poi 45.000 euro per giornali e riviste, 123 euro al giorno. Vuol dire che sono 100 quotidiani comprati al giorno. Noi siamo contenti che facciamo i giornalisti, ma servono tutti questi 100 quotidiani? Beh. C'è anche un medico al CNEL, il cui contratto da 22.000 euro è scaduto pochi giorni fa. Ora dico, io mi auguro che stiano tutti bene, ma se uno si sente male al CNEL andrà in ospedale come tutti i comuni mortali. Beh. 107.000 euro di convenzioni con gli istituti di ricerca, per esempio al Centro Europeo di Ricerche sono state date 84.000 euro per studiare la congiuntura economica. Ma allora, io non capisco una cosa, ma il CNEL è lui che deve studiare la congiuntura economica e poi appalta ad altri lo studio della congiuntura economica? Anche questo è bellissimo. Vabbè, detto questo, questa notizia fa il paio con un'altra invece, che fa capire come i tagli scriteriati, nel senso che non fatti con la spending review, per esempio il CNEL potrebbe risparmiare qualcosa dopo quello che ho letto, Invece se noi continuiamo a fare i tagli trasversali, abbiamo ridotto gli stanziamenti per i vigili del fuoco rispetto al 2012 e le spese ancora non saldate del 2012, per esempio gestione automezzi. Alla voce telefonia e alle spese ancora non saldate, il taglio è del 65% rispetto alle reali necessità. Ora, la telefonia magari per i vigili del fuoco è più importante dei quotidiani per il CNEL. Uno il giornale va fuori e se lo compra, no? Alla fine ho capito, magari il presidente può avere in abbonamento, no. Per il riscaldamento il taglio ai vigili del fuoco è stato del 78%. Io capisco che sono vigili del fuoco e uno dice no, ma che cavolo, gli vai a tagliare il riscaldamento solo perché sono vigili del fuoco. I telefoni, per questa voce il corpo spende circa 1.700.000 euro l'anno ed è la soglia minima sotto la quale non si può scendere. visto che il corpo dei vigili del fuoco paga alla Telecom il costo del servizio 115, la chiamata d'emergenza. Con tanto di IVA ogni 6 mesi pagano una bolletta. Beh, sapete quanto hanno ricevuto per pagare le bollette nel 2012? 900.000 euro contro il 1.700.000-1.800.000 previsto. E quest'anno avranno 600.000 euro. Cosa facciamo? Eliminiamo il servizio del 115? Lo dico al governo, perché noi non siamo contro i tagli to cure alla spesa pubblica, siamo contro la migliore spesa pubblica. E questo paese, come incidenza sul PIL, non spende più di tanti paesi europei, è nella media come spesa pubblica. È che spendiamo male, sprechiamo appunto, no? Facciamo spendere al CNEL 20 milioni di euro e anche 45.000 euro di giornali, di riviste, 22.000 euro di medico, poi tagliamo la bolletta telefonica ai vigili del fuoco. Io veramente non ci posso credere. Pensate che la gestione degli automezzi, perché è importante forse l'automezzo per un vigile del fuoco, è scesa da 42 milioni nel 2012 a 15 milioni nel 2013, cioè un terzo. Il riscaldamento, le spese per riscaldamento, gli stanziamenti per riscaldamento passano da 30 milioni a meno di 7. Voi direte, magari il grosso della spesa va per il personale, sono circa 30.000 i vigili del fuoco. A parte il fatto che io un vigile del fuoco lo pagherei come Ligresti e Ligresti lo pagherei come un vigile del fuoco, ok, visto che dopo ne parliamo degli stipendi, però insomma 1.800.000.000. Però attenzione che la spesa è all'osso, le retribuzioni di vigili del fuoco sono ferme da anni e le assunzioni si fanno col contagocce. Allora, un invito al prossimo governo, un grido di allarme, l'invocazione del film Quinto Potere, qualcuno se la ricorda, insomma, non è possibile avere un paese che non tocca le spese del CNEL, manco fosse la Madonna, e invece continua a tagliare il 60-70% le spese per i vigili del fuoco. Vai. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi al 349-238-6666 e anche sulla pagina di Focus Economia su Facebook su quello che abbiamo appena letto. Sì, guardate, non c'è altro da aggiungere. A parte un ascoltatore che mi scrive: ma siamo sicuri che i vigili del fuoco lavorino molto? In assenza di calamità si girano i pollici. No, mi scusi, ma cosa deve fare un vigile del fuoco se non prende fuoco? Ma magari si girassero i pollici come obiettivo finale, no? Come dire, un medico finché non c'è un'emergenza si gira i pollici, e questo giustificherebbe spendere la 20 milioni di euro per il CNEL ogni anno, chiedo, e altre amenità che leggiamo ogni giorno? Insomma, poi non so, delle volte resto sorpreso. Lavorino molto, speriamo che lavorino poco i vigili del fuoco. Tra l'altro ci segnala un ascoltatore da Casale Monferrato, 36.000 abitanti, che i vigili del fuoco non avrebbero l'autoscala che deve arrivare ogni volta ad Alessandria. Sono dettagli, no? È molto più importante spendere 1.500.000 di consulenze per il CNEL, di appalti esterni. Sì, è vero che Antonio Marzano, l'ex ministro attività produttive del governo Berlusconi, non c'entra, non è il problema. Il problema è che il governo dà i soldi al CNEL, è il governo che li deve ridurre e chiede giustificazioni. Adesso per fortuna la procura ha aperto un'inchiesta, ma non è che il presidente che si autodà lo stipendio. Su, passiamo alla borsa oggi. Buona, molto buona la giornata. Non so se riusciremo a fare anche l'approfondimento, casomai lo facciamo domani, su come va il trasporto marittimo, i costi del trasporto marittimo, per capire in che parte siamo di questa crisi. Borsa più 2,45%, molto bene la chiusura quindi di Milano, anche perché la migliore, Francoforte più 1,1, Londra più 0,70 e poi Parigi più 0,90, l'America, il Dow Jones sta guadagnando lo 0,50%, allora borsa sia. Dunque, il motivo non si chiama solo spread, che è un po' sceso oggi, tant'è che andare particolarmente bene non sono necessariamente i titoli bancari. Generali guadagna il 9,35%, Popolare Emilia Romagna al 7%, però A2A guadagna il 6,20%, Mediobanca al 6%, Enel Green Power il 5,60% come Telecom Italia, Mediolanum il 5,30%, Buzzi Unice 1,5%, Prismian il 3,30%, Eni il 3%, Autogrill il 2,70%, Monte dei Paschi il 2,20%, come Atlantia e Mediaset. Livia Zancaner, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Cos'è che fa andare così bene Piazza Affari? Allora, Piazza Affari, come dicevi tu, una parte è determinata dal calo dello spread, anche se un calo lieve intorno a 317 punti base dall'altra, e soprattutto sono i conti delle blue chip, cioè delle società diciamo così più importanti con una più elevata capitalizzazione di Piazza Affari, che hanno pubblicato i conti e che hanno mostrato delle performance record, come dicevi tu, appunto Generali, Banca Popolare dell' Emilia Romagna, A2A ed altre. E allora vediamoli questi conti generali, qui non si capisce, dico quello che scrivono gli ascoltatori, ha fatto svalutazioni per 1,7 miliardi, cioè ha rettificato il valore di alcune partecipazioni rispetto ai valori che aveva prima in bilancio e ha dovuto svalutare per 1,7 miliardi, dividendo a 20 centesimi di euro, meno 90% per via delle svalutazioni l'utile che è crollato a 90 milioni, il titolo però ha fatto il botto, più 9,35%. Sì, il titolo ha guadagnato il 9,35%, diciamo che in questa tornata, chiamiamola così, di conti, il mercato sta premiando le società che fanno quella che si definisce la pulizia di bilancio, e quindi questa svalutazione nel bilancio generale è stata considerata in modo positivo. Ricordiamo anche che oggi Mario Greco, il numero uno di Assicurazioni Generali, ha dichiarato che la società cercherà progressivamente di aumentare il dividendo, e anche questa dichiarazione quindi è stata apprezzata dal mercato con un rialzo del titolo di oltre il 9%. Ancora, oltre alle generali vanno bene, come ricordavo, anche Popolare Emilia Romagna e A2A. Telecom ha fatto anche lei molto bene, più 5,60. Pop Emilia Romagna, A2A e Telecom. Sì, Popolare dell'Emilia Romagna ha beneficiato dei conti che sono stati pubblicati ieri a mercati chiusi e che hanno evidenziato per il 2012 una perdita di 32,6 milioni, anche qua un risultato sensibilmente penalizzato dagli accantonamenti prudenziali sui crediti, quindi accantonamenti che anche come nel caso delle generali sono stati apprezzati dal mercato. Per quanto riguarda A2A, ricordiamo che A2A ha pubblicato oggi i conti, la società è tornata all'utile per 260 milioni di euro rispetto alla perdita di 423 milioni di euro del 2011, ha deciso di distribuire un dividendo pari a 0,026 euro per azione, quindi il doppio rispetto alla cedola dell'anno precedente, ha mostrato un debito a 4,36 miliardi di euro rispetto ai 5 miliardi della scorsa estate, quindi anche in questo caso il mercato ha apprezzato i risultati comunicati. Per quanto riguarda Telecom, non si tratta in questo caso dei conti ma di un collocamento, la società ieri ha infatti collocato un bond, quindi un'emissione per 750 milioni di euro con un rendimento inferiore all'8%. Dopo questa emissione l'agenzia di rating Fitch ha ribadito il giudizio BBB sul debito, sempre con un outlook negativo, e ha specificato che questa emissione attenua momentaneamente la preoccupazione di un aumento di capitale per la società. Dicevamo bene anche Eni, oggi da Londra ha diffuso i dati, la produzione tra 2013 e 2016 più 4%, investimenti per quasi 57 miliardi di euro con un dividendo, Olivia. Ricordiamo che il titolo ha guadagnato oltre il 3%, sì, la società quindi oggi ha pubblicato il piano 2013-2016 e un piano che prevede un dividendo in crescita di quasi il 2%, 1,10 euro per quest'anno. Ricordiamo che la società ha chiuso il 2012 con un utile di 7,8 miliardi di euro circa e ha deciso di proporre una cedola da 1,08 euro per azione. Rapidamente Tod's meno 1,33%, Ubi, vabbè, i conti di ieri li abbiamo già commentati, e vorrei anche un commento su Dada e Cattolica Assicurazioni. Cattolica più 11,80 e Dada invece più 9,80. Sì, Sì, allora, per quanto queste due società sono state le migliori del listino milanese, Cattolica ha beneficiato dei conti 2012 che si sono chiusi con un utile raddoppiato, 84 milioni di euro rispetto ai 42 milioni del 2011. Per quanto riguarda Dada, non sono stati i conti a mettere le ali al titolo, ma l'annuncio da parte di RCS che ha messo in vendita la quota del 54,6% detenuto nel capitale di Dada, sempre nell'ottica della cessione delle attività no core per fare cassa, quindi il titolo ne ha beneficiato. Si smonta invece un po' l'ipotesi della cessione di Banca Intermobiliare, meno 9,91, Telecom Italia Media meno 3,90, Pquadro meno 3,40, Primi sui motori meno 6%. Grazie a Livia Zancaner, bene anche Premafin Finanziaria più 7,60%. Dicevo, grazie a Livia Zancaner. Noi restiamo sul titolo Fondiaria SAI, perché oggi c'è stata un'iniziativa importante da parte dell'Assemblea degli azionisti che ha votato l'azione. Anche l'Assemblea di Milano Assicurazioni ha votato l'azione di responsabilità contro i Ligresti. Ora, io non vorrei fare un discorso così populista, però mi ha appena scritto un poliziotto che dice che dopo 10 anni di servizio prende come un vigile del fuoco, e cioè 1.350 euro netti al mese. Allora, si può andare avanti con un paese in cui il CNEL fa guadagnare al presidente 2 milioni e costa 20 milioni di euro l'anno, e il poliziotto e il vigile del fuoco guadagna 1.350 euro netti al mese? Non lo so, però anche dal privato ogni tanto qualche brutta notizia arriva. Il racconto della gestione di Gresti di Fondiaria SAI è un racconto degli orrori da questo punto di vista. Il gruppo chiude il 2011 con 1 miliardo di perdite e 1.600 milioni di debiti, ma l'amministratore delegato uscente Fausto Marchionni si becca 10 milioni e mezzo di euro di buona uscita, il presidente Elena Ligresti 2 milioni e mezzo quell'anno, il vicepresidente Paolo Ligresti 2 milioni, l'ex vicepresidente Giulio Ligresti 840 mila, per un compensi complessivi nel CDA del Consiglio di Amministrazione di quella Fondiaria SAI per 31 milioni di euro. Complimenti, no? Uno dice, potevamo magari chiudere peggio, che ne so. Tra il 2008 e il 2011, Ionella Ligresti riceve da Fondiaria SAI 9 milioni e mezzo di euro come compenso per la carica del presidente, scrive il commissario Matteo Caratozzolo, quello che ha proposto la causa di responsabilità. Emolumenti abnormi, anche perché le deleghe affidate a Ionella Ligresti sono state esercitate in maniera sporadica e saltuaria, per non dire minimale. Ma non solo, perché riceve anche 5 milioni di euro di sponsorizzazioni per la sua società Laità, quella che gestisce la scuderia, lei è appassionata di cavalli. E poi tutta l'accusa, di cui adesso parliamo con la collega del Sole 24 Ore Laura Galvagni, nei confronti della spoliazione, dice il commissario, attraverso soprattutto le operazioni immobiliari, l'opera di spoglio, tutti il ricorso, l'azione contro i Ligresti è stato votato anche con il voto determinante di Unipol. Laura, buonasera. Buonasera a voi. Qual è l'accusa di questo rapporto di aver spogliato e distrutto il valore di Fondiaria SAI con operazioni immobiliari? Ma in che senso? Perché hanno comprato male troppo? No. O perché i Ligresti si sono fatti comprare i loro immobili da Fondiaria SAI di cui erano proprietari? Direi più la seconda. La seconda che hai detto. Diciamo che è Caratozzolo, che è il commissario che si è occupato di tutta la vicenda, l'ha definita proprio una spoliazione sistematica, con dei danni ingentissimi per le due compagnie assicurative, che lui ha, mi sembra, stimato nell'intorno dei 130 milioni di euro complessivi, come danni soltanto. Perché c'erano e si sono susseguiti nel corso di diversi anni una serie di operazioni fatte in conflitto di interessi, che erano quasi esclusivamente operazioni di carattere immobiliare, tant'è che Caratozzolo sottolinea che nel corso di quel periodo, quindi dal 2003 al 2011 più o meno, l'unico interlocutore nel settore immobiliare di Fondiaria SAI e Milano Assicurazioni era la famiglia Ligresti, ossia qualsiasi operazione le due compagnie facevano in quel comparto, la controparte erano i Ligresti. E quindi l'accusa è che, insomma, era una partita di giro: vendi una tua società, nel caso di Ata Hotel, a prezzo definito dal commissario incongruo, 25 milioni, per farla comprare a Fondiaria Sai, di cui sei presidente, a un prezzo ovviamente altissimo. Peraltro nel corso del tempo a Fondiaria Sai facevano acquistare immobili destinati ad uso alberghiero che poi sarebbero stati fatti conferire ad Atotel. Cioè non era solo quello, non era solo l'acquisto di Atotel, erano anche tutti gli immobili, gli alberghi fatti costruire. Complimenti. E io poi vorrei capire perché Mediobanca presta più di un miliardo a queste persone, quando poi le banche, sappiamo, sono molto attente a prestare soldi ai piccoli imprenditori, agli artigiani e anche ai normali cittadini. Cioè, voglio dire, cos'è, un problema di ratios, di Basilea 2, di IAS oppure di Salotti? Saperlo. Che cosa potrebbe capitare adesso? Allora, oggi le due assemblee hanno votato l'azione di responsabilità. Non era peraltro un passaggio scontato, perché Unipol a suo tempo, quando concluse l'accordo con i Ligresti per l'acquisizione di Fondiaria Sai e Milano, concesse ai manager, non alla famiglia, la manleva. E quindi in teoria non avrebbe potuto promuovere questa azione di responsabilità. Oggi ha deciso di non considerare valida quella manleva. Sì, l'ha detto Cimbri, infatti. Esatto, e quindi di procedere al voto e quindi all'azione di responsabilità. Adesso verranno chiesti i danni ai manager e alla famiglia. Beh, adesso prima di fare il processo, ma mi sembra il minimo che un gruppo che si ritrova così voglia vederci chiaro. Il commissario è durissimo, dice spoliazione sistematica del gruppo. Non lo diciamo noi, ci mancherebbe. Dopodiché, con quello che abbiamo letto, si capisce da solo che qualcosa che non andava ci fosse stata. E abbiamo letto solo alcune piccole chicche, perché potrei andare avanti sulle consulenze. Le consulenze Ligresti. Salvatore Ligresti faceva il presidente, ma si autopagava le consulenze. Sì. 42 milioni di euro si è fatto pagare dal 2003 al 2010, è il massimo. Uno possiede una cosa, però poi faceva il consulente di se stesso. Andava consulenze immobiliari, tra immobiliari, l'altro. Tra l'altro, hai visto poi. Geronimo La Russa, fratello e anche figlio di Ignazio Vittorio Geronimo La Russa, 670.000 euro. Però noi dobbiamo stare allegri, dobbiamo essere contenti, perché queste, ci sono tante coincidenze. Anche il figlio del presidente dell'ISVAP, che dovrebbe vigilare su Fondiaria Sai, Andrea Giannini, ha lavorato dal 2005-2006. Inutile che si arrabbi il presidente dell'ISVAP con me, ma noi vogliamo stare sereni, perché tutto questo non ci deve fare arrabbiare. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Continuano ad arrivare messaggi al 349-238-6666 che mancano, non so, ai vigili del fuoco di Reggio Emilia. Manca la Toscana per il rischio emergenza. Questo perché abbiamo ricordato in apertura, per chi se la fosse persa, come si spendono male i soldi pubblici. Ripeto, in percentuale al PIL noi non abbiamo una spesa pubblica più alta della media, però spendiamo male, e abbiamo fatto l'esempio dei 20 milioni di euro l'anno che costa il CNEL e dei tagli assurdi, a mio avviso, fatti al riscaldamento, alle bollette e a quant'altro, e anche gli stipendi bloccati dei vigili del fuoco. Adesso però ci spostiamo, a proposito di tagli, a Bruxelles, perché ha preso il via praticamente 20 minuti fa il vertice europeo dedicato alla crescita. Poi alle 22 resteranno solo i leader dell'area euro per una specie di eurogruppo quindi che verterà sulla situazione finanziaria e sul futuro dei paesi della moneta unica, a cui parteciperà anche il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. È un vertice di crisi, capi di Stato e di Governo. Per noi va Mario Monti, perché non abbiamo ancora un capo del governo, e quindi va il presidente del Consiglio uscente facente funzioni. Non potranno comunque ignorare anche il messaggio di ieri dell'Europarlamento, che ha bocciato il bilancio 2014-2020, e poi le proteste contro l'austerità che arrivano da diversi stati. Oggi 15.000 rappresentanti dei lavoratori europei si sono riuniti al Parco del Cinquantenario protestando e chiedendo di porre fine alla politica di austerità e di dare una risposta all'emergenza sociale. Di emergenza sociale ha parlato anche la Banca Centrale Europea, definendo un vero e proprio allarme quello della disoccupazione giovanile, chiedendo ai governi di agire, e su questo è intervenuto anche Hollande, il premier francese, che ha detto: troppa rigidità, lo ha detto entrando al vertice europeo, significa troppa disoccupazione. Ora la crescita è la priorità, al di là degli impegni di bilancio che comunque devono essere confermati. E contro la disoccupazione, in particolare quella giovanile, si è espressa anche la cancelliera tedesca Angela Merkel. Dobbiamo mettere un punto fermo, la lotta contro la disoccupazione giovanile. Abbiamo varato la scorsa estate un patto di crescita a livello europeo. Dobbiamo utilizzare questi soldi per farli arrivare alla gente, farli arrivare ai giovani, affinché questi soldi si trasformino in posti di lavoro, affinché portino competitività e crescita nei paesi europei. Sì, poi però ci dicono anche come. Per esempio, Van Rompuy, il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, ha detto ci troviamo in un contesto diverso da quello di ottobre, anche se il peggio della crisi finanziaria è alle spalle. Mamma mia, gesti scaramantici inclusi. C'è ancora molta strada da fare, per questo abbiamo una strategia a quattro gambe che devono funzionare tutte nello stesso tempo. Sentiamo. Today is in a different context from that of our last meeting. Sì, Vanita. Ci troviamo in un contesto diverso da quello di ottobre. Anche se il peggio della crisi finanziaria è alle spalle, c'è ancora molta strada da fare per la crescita e l'occupazione. Per questo, come Unione Europea, abbiamo una strategia a quattro gambe che devono funzionare tutte allo stesso tempo. Prima di tutto, dobbiamo ripristinare e mantenere la stabilità finanziaria nell'area euro. Questa è la principale precondizione per recuperare la fiducia dei consumatori e delle aziende. Senza questa prima gamba, sarebbe difficile generare crescita e lavoro. Dopotutto, la mancanza di fiducia è una delle cause della stagnazione delle nostre economie, che non è tutta legata alla cosiddetta austerità. Poi, dobbiamo tornare ad avere finanze pubbliche sane e sostenibili, attraverso il proseguimento di un differenziato consolidamento fiscale e focalizzato su sforzi strutturali. La terza gamba affronta l'emergenza attuale e consiste in misure specifiche contro la disoccupazione e le divergenze in campo sociale. Infine, dobbiamo continuare le politiche per rafforzare il nostro potenziale e una maggiore competitività per arrivare a una crescita di lungo termine. Dunque, sugli obiettivi siamo tutti d'accordo, poi bisogna capire come achieve long term growth, come arrivare a obiettivi di crescita a lungo termine, con quali investimenti, con quali soldi soprattutto, visto che il fiscal compact obbliga un paese come l'Italia per 20 anni a fare ogni anno, a tagliare ogni anno 50 miliardi quasi di debito. Con quali soldi? E poi sull'Italia, Van Rompuy, sono fiducioso che il buon senso vincerà. È responsabilità del Presidente della Repubblica italiano sbloccare questa crisi politica. Sono fiducioso che il buon senso vincerà, se lo dice lui. Monsieur Monti, il a fait un excellent travail. Il signor Monti ha fatto un lavoro eccellente sia sul fronte del risanamento dei conti pubblici che delle riforme strutturali con lo scopo di aumentare il potenziale di crescita dell'Italia. Perché uno dei grandi problemi di questo grande paese è che la sua crescita è stata troppo lenta ed è stata da ostacolo sia per i conti pubblici che per l'occupazione. Se l'Italia continua nella direzione di questi ultimi mesi, ha tutte le chance per ritornare al suo legittimo posto nella zona euro. La domanda implicita è se non si deve tenere conto del risultato delle elezioni. Io non sono competente e quindi credo che sia responsabilità del Presidente della Repubblica italiano sbloccare questa crisi politica. È responsabilità italiana risolvere la crisi, ma malgrado tutto sono fiducioso che il buon senso alla fine vincerà e che si deciderà, anche se con sfumature e modalità diverse, di continuare a lavorare nella direzione di un'Italia con una crescita più forte e conti pubblici migliori. Continuerà a lavorare nella direzione di un'Italia con una croissance più forte e con delle finanze pubbliche più sane. Allora, un ascoltatore fa notare che dire a quattro gambe significa a gattoni, che non è esattamente una posizione propositiva. Vabbè, sulla crescita con una strategia a quattro gambe. C'è a Bruxelles il nostro inviato Sergio Nava. Sergio, buonasera. Buonasera. al di là della crescita a gattoni, come dicono alcuni ascoltatori, si parlerà anche molto, anche se non si può dire ufficialmente, di Italia a questo vertice e soprattutto dell'esito del voto italiano, Sergio. Beh, questo chiaramente lo stesso Mario Monti lo ha detto, è chiaro che nessuno si è, come dire, ufficialmente espresso sull'Italia, a parte Juncker, che ha detto che l'Italia non avrà bisogno, secondo lui, di un salvataggio, però è chiaro che, come dire, l'esito del voto italiano ha fatto riflettere molto. A questo proposito abbiamo anche intervistato il commissario europeo per l'occupazione e affari sociali, Laszlo Andor, che dice che l'Italia deve proseguire sul sentiero delle riforme. Sentiamo subito cosa ci ha detto Andor questa mattina. Well, you know, uncertainty of governance is normally. L'incertezza di governo non è normalmente buona per la situazione economico-finanziaria, ma le elezioni sono un tema interamente domestico. Dal punto di vista sociale, abbiamo enfatizzato che le due maggiori riforme su pensioni e mercato del lavoro sono state molto importanti per migliorare il potenziale di crescita dell'Italia e la sostenibilità del sistema pensionistico. Occorre continuare a sostenere questi risultati. Occorre migliorare l'accesso al mercato del lavoro di giovani e donne. Occorre andare avanti. Chiaramente c'è bisogno di un governo per fare questo, che sarà probabilmente un governo di coalizione. Saremo molto contenti di lavorare col nuovo esecutivo. Eh sì, tutti, anche se non ufficialmente, parlano di Italia. Il premier finlandese dice: la medicina del governo Monti per l'Italia era estremamente sgradevole, ma ha funzionato, riuscendo a stabilizzare il paese. Si è capito, era una purga, cos'era? Un olio di ricino, perché abbiamo visto solo la parte dei tagli, delle tasse, non la parte della crescita, lo dico. Capisco che in Finlandia si abbia una prospettiva un po' alta, un po' nordica, però se fa un giro per l'Italia, quello che raccontiamo tutti i giorni sui consumi, sulla disoccupazione giovanile, sulle spese addirittura per il vino che calano per la prima volta in 10 anni, come raccontavamo ieri, bisogna vedere da che punto di vista se la si prende la ricetta Monti. A mio avviso è stato un antibiotico senza vitamine, però è la mia opinione personale. Andiamo avanti, Sergio. Anche Mario Monti è intervenuto oggi. Esatto, è una cosa interessante. Mario Monti ha parlato poco dopo l'una, quando, prima di andare al vertice dei popolari europei, dove tra l'altro era invitato come ospite, è la seconda volta, la prima era andato a dicembre. Ed è interessante, secondo me, l'ultimo passaggio del discorso che ha fatto. È partito col Papa, poi ha parlato di economia, ma l'ultimo passaggio, quando dice l'Italia comunque è un partner che va rispettato, e questa sera io porterò il caso Italia perché ci sia una riflessione. Qui Monti è sembrato molto sbilanciarsi, tra poco lo sentiamo, però molto sbilanciarsi, non tanto in, come dire, una sorta di pentimento per l'austerità, per la massiccia dose di austerità che è stata anche propinata nell'ultimo anno e mezzo, ma come dire, attenzione che troppa austerità, e lo dimostra anche il caso Italia, può portare nelle urne grande incertezza. Ma se ne è accorto anche Monti, prego. Parlerò ai miei colleghi nella consapevolezza di partecipare per l'ultima volta al Consiglio europeo e all'Eurosummit, invitandoli a riflettere in positivo e in negativo sul caso italiano, perché è un caso che, al di là dell'importanza dell'Italia come uno dei grandi Stati membri, si presta a riflessioni più generali. No, scusami se sorrido, però Varun poi poco fa ha detto: la situazione in Europa resta di grande preoccupazione, ora dobbiamo trovare il giusto equilibrio, non è tutto bianco o nero, ma le sfumature contano, alcuni direbbero che ci sono molte sfumature di grigio. Cioè Varun poi ha citato il libro erotico, il bestseller 50 sfumature di grigio, per ora qua in Italia abbiamo visto solo pratiche sadomaso da questo punto di vista, traffico, e poi veniamo alle altre notizie da Bruxelles. Mancava solo citare le sfumature di grigio per far capire in che situazione siamo. Forse da lì le quattro gambe di Van Rompuy. Oggi è particolarmente ispirato, il presidente. No, dico, tutto vero quello che tu ricordavi, Sergio, cioè che Monti ha detto: beh, porterò il caso Italia per far capire quanto l'austerità possa portare poi a scelte politiche e voto di pancia. Poteva anche lo dico io, pensarci prima, nel senso che a Bruxelles si potevano battere i pugni un po' più forte dopo aver dimostrato che l'Italia si era messa a fare i compiti a inizio gennaio del 2012, eh? Però è una mia valutazione. È arrivata anche da Monti una richiesta di maggiore flessibilità nel computo, nel calcolo degli investimenti. Noi continuiamo a battere su questo tasto, esiste un deficit buono, cattivo, che è quello che ricordavamo anche prima per spese inutili, ed esiste un deficit buono quando tu investi sul futuro e quindi fai infrastrutture, fai corsi di formazione, infrastrutture anche tecnologiche, riduci le tasse in busta paga, no? Come qualunque imprenditore sa, spendere può essere una buona cosa o può essere uno spreco. Sergio. Sì, e qui una precisazione anche abbastanza importante, perché quello che sto notando è che tutti, a parte insomma i paesi forse un po' più rigoristi, ma la Merkel stessa alla fine poi si è lasciata andare a grandi parole sulla crescita arrivando, parlano della necessità di crescita, di investire di più, di rilanciare l'economia, meno austerità, però bisogna anche dare delle, lo fanno con sfumature un po' diverse. Allora, mentre per la Francia e la Spagna ad esempio questo significa poter allentare un po' i vincoli di bilancio, perché Parigi quest'anno chiuderà con un deficit del 3,7%, l'ha messo ufficialmente online l'altro ieri, per l'Italia che ha i conti invece per quanto riguarda il deficit più a posto rispetto alla Francia, questa crescita significa poter, appunto come dicevi tu, scorporare investimenti produttivi o comunque investimenti che producono occupazione e fanno girare l'economia dal computo proprio del deficit. Quindi attenzione anche alle sfumature, per tornare alla parola che usavamo prima, perché sono diverse e variano anche da paese a paese. Investire in crescita può essere diverso, può avere un'accezione diversa, certo, anche da paese a paese. Sentiamo cosa ha detto Monti. Oggi è il momento di insistere sulla tempestiva, piena, puntuale attuazione del patto per la crescita che, sapete, anche per insistenza italiana il Consiglio europeo ha deciso nel giugno del 2012. È anche sempre più chiara l'esigenza di proiettare verso il futuro ogni atto economico che viene compiuto, verso il futuro e verso la crescita, e non c'è nessun anello più chiaro e più rilevante tra il presente e il futuro in materia economica che gli investimenti, compresi gli investimenti pubblici. Sono stati introdotti margini ragionati di flessibilità nell'ambito delle norme europee per la disciplina di bilancio, e di nuovo chiederemo che di questi margini ci si possa avvalere. E credo che l'Italia sia ascoltata oggi, mi auguro anche in futuro, con particolare rispetto e attenzione, perché è un paese, è un popolo, quello italiano, che ha dimostrato una straordinaria fiducia nell'Europa nei fatti. Lasciamo perdere altre manifestazioni di opinione, ma nei fatti, perché è un paese che ha saputo ritrovare da sé un equilibrio della propria finanza pubblica. Sì, scrive uno ascoltatore, ricordo che Monti ha governato 12 mesi, la ricetta è stata interrotta con la crisi di governo, non ha avuto il tempo per far partire la seconda fase di riforme e rilancio dell'economia. Barigione non faccia il grillino, Monti ha sistemato i conti. Come si può pretendere che in 12 mesi si risolvano danni di 10 anni di populismo e demagogia? Allora, l'abbiamo sempre detto che la prima parte del governo Monti è stata salutare per questo paese, anche se c'è chi pensa che lo spread non conti. È fatto bene, a nostro avviso, e lo abbiamo detto proprio negli ultimi mesi, prima che scoppiasse la crisi di governo, è mancata da un lato la forza, la voglia, non lo so, di andare in Europa e mettersi di traverso e dire non esiste far passare certe cose, o alleggeriamo l'austerità in un periodo di recessione, e poi forse è mancata anche qualche idea a costo zero. Sburocratizzare il paese si può fare a costo zero, la spending review ha prodotto una cifra risibile, 400 milioni di euro di risparmi, un po' più di coraggio. È vero che era un governo tecnico appoggiato da una maggioranza strana, che quando ha sentito l'odore di elezioni ha iniziato a fare capire che non avrebbe più votato leggi tra virgolette impopolari, perché uno perde il consenso. Comunque, Sergio Nava, a questo punto abbiamo visto un'agenzia poco fa che dice, secondo il premier finlandese Jyrki Katainen, quello che ha detto che la medicina Monti è stata amara ma ha funzionato, non ti dico cosa stanno scrivendo gli ascoltatori, però dice non c'è flessibilità per la Finlandia. Non c'è margine per introdurre una flessibilità negli investimenti in bilancio, anche se la bozza italiana, quella che chiede una flessibilità sugli investimenti produttivi, è stata accolta. Secondo te si andrà a che cosa? Ma tutte le previsioni stamattina paventavano o un consiglio abbastanza transizione o un consiglio di vero e proprio scontro tra queste due diverse filosofie, tra la filosofia che vuole in qualche modo italiana, francese, spagnola, che vuole la Francia vuole allentare i vincoli di bilancio, l'Italia vuole poter scorporare gli investimenti produttivi dal deficit, insomma, tra questa linea e quella più rigorista. Devo dire che quello che ha detto Angela Merkel arrivando è abbastanza interessante, perché non ha praticamente toccato il tema del rigore, ha parlato di crescita. Alla fine, fortunatamente, la Finlandia è uno dei 27 paesi, però è un paese relativamente piccolo. Se si riesce in qualche modo a ammorbidire la posizione tedesca, se si riesce a far sì che questa riflessione che vuole portare Mario Monti sui rischi che ci sono dal troppo rigore poi riesce a fare breccia, forse lo scontro si può tramutare in qualcosa di più costruttivo, anche se è difficile immaginarsi grosse conclusioni da questo vertice. Quantomeno si aprirà una riflessione, quantomeno qualcosa cambierà. Lo stesso Juncker, l'ex presidente dell'Eurogruppo, ha detto: attenzione, qui rischiamo delle rivolte sociali. Quindi si sta facendo largo la consapevolezza che occorre cominciare ad ammorbidire e stimolare maggiormente l'economia, stimolare maggiormente gli investimenti, perché di rigore ce n'è stato, ma forse anche un po' troppo. Sì, ma poi non è troppo rigore, che è mancata la seconda gamba, visto che io conosco solo le due gambe, e cioè quella delle iniziative per la crescita. Si poteva, a mio avviso, essere più duri con l'Europa. L'Italia è un paese così pesante e importante che solo minacciare, diciamo, può avere i suoi effetti. Allora, c'è chi dice che io difendo Monti, c'è chi dice che attacco Monti per difendere D'Alema e Berlusconi. Vabbè, ognuno la pensi come vuole. La mia analisi è un po' più articolata. Bene la prima parte del governo Monti, che ci ha salvato da un precipizio in cui ci stavamo buttando. Meno bene, più assenza di voto, diciamo, per la seconda parte, perché secondo me si poteva essere un po' più insistenti sia sul fronte europeo che sul fronte interno. Comunque, Sergio Nava, lo rivedremo in collegamento anche domani. Questa sera inizia il vertice dell'Eurogruppo con la partecipazione anche di Mario Draghi. Grazie a Sergio in collegamento con noi da Bruxelles. Da Sebastiano Barisoni l'augurio a voi in ascolto di una buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.